24 di Giovanni Minoli. La preside dell'Istituto Guido Galli di Milano, Anna Lombardi, è stata vittima di un'aggressione. Poco prima della fine delle lezioni, il padre della ragazzina ha varcato l'ingresso della scuola e si è fiondato addosso al docente, picchiandola a calci e pugni. La mamma di un'alunna vede il professore e lo aggredisce davanti alla porta, si avventa su di lui, lo butta a terra, il figlio interviene subito, prima è stata la madre, addirittura la madre, e lo buttano a terra, gli occhiali si rompono e addirittura calci e pugni. Dunque, genitori contro professori non è il titolo di una commedia all'italiana, ma una realtà che si aggiorna continuamente con nuovi episodi di violenza. L'ultimo caso è successo a Catania, dove un professore della scuola media è stato assalito dalla madre e il fratello di una studentessa che aveva rimproverato. Da Catania a Roma, passando da Ostia, arrivando a Milano, dove la scorsa settimana la preside, abbiamo sentito Anna Lamberti dell'Istituto Guido Galli, è stata aggredita nell'atrio della scuola da un uomo che le ha gridato «te ne devi andare». Non si conosce ancora l'identità dell'aggressore, ma quello che si sa è che il rapporto tra i genitori dell'istituto non fossero tra i più sereni. La prima domanda dunque che ci facciamo e che vi facciamo è questa: perché se un figlio va male a scuola la colpa non è sua ma è per forza dell'insegnante? Insomma, si è rotto questa antica alleanza tra genitori e professori che serviva a far crescere i ragazzi? 800 24 00 24 per intervenire in diretta, se lo volete 349 238 6666 per inviare sms. Intanto a Amanda Ferrario, preside del liceo classico Tito Livio di Milano, ex professoressa, ecco, lei ha scritto una lettera aperta al ministro dell'istruzione Giannini, che è diventata il simbolo di una protesta che sta crescendo. Infatti è già stata sottoscritta da altri 40 dirigenti scolastici lombardi e le adesioni continuano. Che cosa ha voluto sottolineare nella sua lettera? Sottolineo il fatto che noi lavoriamo tutti i giorni in un contesto educativo, per cui fondamentale che ci siano delle alleanze. Le alleanze devono essere col territorio, con i nostri enti di riferimento, quindi direzioni regionali e ufficio centrale di Roma, quindi il ministero, ma anche con la famiglia. Ecco. Rispetto a questo non si può lavorare da soli. Ecco, ma è vero che, come hanno aggiunto alcuni suoi colleghi, voi lavorate, testualmente leggo, lavorate in trincea con mille scadenze, sì, difficoltà, poi siete lasciati soli alla mercé di violenze private, fisiche e morali. Non è un po' troppo? Allora no, se passasse anche solo una giornata in ufficio di un dirigente vi rendereste conto che noi facciamo di tutto. Gestiamo per esempio problemi relativi alla sicurezza degli edifici, però poi non abbiamo competenza strutturale, cioè non possiamo fisicamente risolvere questo problema, ma ne siamo responsabili. Un esempio è Livio Bearzi, è il preside della scuola dell'Aquila, è stato l'unico a essere andato in carcere per i problemi strutturali del crollo della scuola. Ma non ne aveva nessuna competenza, ovviamente. Certo, ma la trincea però, dottoressa Ferrario, è un luogo, diciamo, usato in guerra. C'è quindi una guerra in corso, tra chi esattamente? Diciamo che il principale problema in questo momento è l'alleanza educativa. Noi abbiamo spesso degli interlocutori, a volte sono le famiglie, i genitori, non è il mio caso personale, però sì, ce ne sono moltissimi che non si rendono conto che noi non possiamo sostituirci al loro ruolo. Quindi i ragazzi devono venire ben strutturati, con un bagaglio educativo che non può fornire la scuola. La scuola li forma, li educa, nel senso che li conduce, nel vero senso latino del termine. Però purtroppo non possiamo sostituirci ad un ruolo che non ci compete. Ecco, dottoressa Ferrario, la ministra dell'istruzione Giannini ha risposto alla sua lettera? Sì, ha risposto. E cosa le ha detto? Ha risposto via Facebook dicendo che questo nostro disagio intanto lo condivide, lo interpreta come una mancanza di alleanze, sottolinea che la buona scuola è in qualche modo il veicolo per poterne creare, che vanno in questa direzione. Noi siamo anche d'accordo rispetto a questo, chiediamo però che il nostro ruolo venga riconosciuto anche dal Ministero. Lei, dottoressa Ferrario, conosce Anna Lamberti, la preside, sì, che è stata aggredita all'Istituto Galli di Milano? Sì, la conosco, ecco, personalmente. Che preside è, secondo lei? È una preside giovane, come lo siamo in tanti di questa nuova leva, e che cerca di fare il possibile in un contesto che a volte è un contesto molteplice, che ha diverse esigenze. Ora, io non so di preciso se lei abbia o non abbia problemi rispetto alla gestione del ruolo, però insomma è una preside come tante, quindi non diversa dagli altri. Ecco, ma lei pensa che possa essere stata un genitore dei suoi allievi ad aggredirla? Io spero e mi auguro assolutamente di no. In una città come Milano ci sono molteplici realtà, quindi voglio assolutamente credere che non sia così. È vero che prima dell'aggressione alcune famiglie di quella scuola avevano scritto decine di lettere contro l'operato della preside? Guardi, io di questo non sono a conoscenza, però se anche fosse, un gesto del genere non ha giustificazione alcuna. Naturalmente. Ma a lei è mai capitato di essere contestata dai genitori? Io ho 650 studenti e tendenzialmente un ottimo rapporto con loro e con i loro genitori. Capita però che ci siano genitori che non sono assolutamente in linea o che ritengono di aver subito delle gravi ingiustizie, a volte magari per un voto, insomma, cause di questo tipo al TAR ce ne sono molti. Contestata personalmente, come persona, no, come no. Ruolo magari. Sì. Senta, lei nella sua lettera ha scritto: la scuola non può sostituirsi alle famiglie, l'ha detto, l'educazione di base che si insegna tra le mura domestiche non può e non deve diventare il bersaglio di ogni rivendicazione sociale. La scuola è un luogo sacro dove le alleanze educative non possono essere solo parole. Ecco, esattamente che cosa significa che è un luogo sacro? Significa che nella scuola noi ancora custodiamo un baluardo che è quello della cultura per tutti, che è assolutamente fondamentale. I ragazzi devono avere tutti le stesse opportunità, quello di formarsi in un paese che culturalmente è il migliore in assoluto nel nostro panorama europeo e che quindi deve in qualche modo andare oltre. D'altra parte però noi non possiamo diventare il bersaglio di tutto, non può essere sempre tutto colpa della scuola. Ecco, ma perché si è rotta questa antica alleanza tra genitori e professori, secondo lei? Perché non viene, che una volta era automatica. Non viene più riconosciuto il ruolo sociale del professore. Il professore è considerato una professione di serie B e invece il professore, il maestro anche elementare, ha un ruolo fondamentale nella crescita degli studenti. Ma quindi lei dice che sono cambiati di più i genitori verso gli insegnanti? Tendenzialmente è cambiata la società. Il rispetto che si aveva prima per alcuni ruoli adesso non è considerato più come una volta, anche dal punto di vista economico. Fare il professore o fare l'insegnante rende poco, per cui non è un lavoro appetibile in una società che invece ha altri valori e altri ideali. Una volta i valori erano molto diversi, il maestro era un po' una delle persone più importanti della piazza, come lo era il notaio, certo. Come lo era il farmacista. Oggi non è più così. Ecco, molte le reazioni a questo primo intervento. Ricordo il numero 800 24 00 24, e per gli sms 349 238 6666. Questa società competitiva, scrive Sandro da Trieste, ecco, perché i genitori di oggi non accettano il figlio inferiore agli altri? Ecco, questo è un tema abbastanza significativo e che ritorna. Quando andavo a scuola io, scrive Francesco Ivrea, per i miei genitori i professori avevano sempre ragione e quando non era così non me lo dicevano di sicuro. Ecco Mario, tu hai una moglie che fa che insegna, e questo perché si è spezzato questa alleanza tra genitori e insegnanti? Perché? Ma guarda, la risposta ovviamente non è semplice e secca, come tutti i problemi ci sono vari aspetti. Una cosa è certa, il messaggio che leggevi tu sulla sacralità, non di quello che dicevano i maestri, i professori in passato, è questa si è rotta. Ah. Ricordo anche io quando andavo a scuola, entrava la maestra, il saluto era automatico, certo. Se entrava il preside tutti in piedi. E poi si è spezzato questo filo, secondo me le famiglie non... Ma non accettano l'idea che i loro figli possano essere anche... degli asini. Come dice Cicci, dice, se avete figli con la testa quadra, non possono gli insegnanti diventare tonda. Purtroppo l'asinello esiste, bisogna solo correggerlo, farlo studiare, duro lavoro. Questo non viene accettato, i casi sono moltissimi, ovviamente sai, la casistica è enorme, è ormai. Così. Tu Pietrangelo, anche tu hai una moglie insegnante, hai insegnato anche tu, no? Sì. Ecco, questa violenza, questa escalation di violenza nel rapporto fra genitori E professore, come te la spiego? Beh, l'ha già spiegato bene la preside Ferrario, il ruolo sociale è cambiato. Una volta l'insegnante, al pari del medico, di un ufficiale dell'esercito, erano delle figure che nell'orizzonte sociale meritavano rispetto e avevano un ruolo ben preciso. Adesso l'insegnante è considerato alla stregua di un parcheggiatore, di uno che comunque messo lì capitano spesso accanto ad episodi, accanto a episodi di violenza. Io ho memoria ben precisa di ragazzini che a scuola rinfacciavano lo scarso stipendio agli insegnanti. Sì, cosa addirittura. Ho memoria ben precisa di atteggiamenti che inevitabilmente derivano da quello che viene recepito a casa. A casa. Perché c'è una forma di disprezzo stabilita al di là della competitività, anche dal fatto che ormai non è considerato un bene supremo il sapere. Si va dal medico con la soggezione e con rispetto dovuto a chi ci può salvare la vita, non si va più di fronte a un maestro, a un insegnante, con rispetto alla soggezione riferita a qualcuno che abbiamo ci può Giovanni dare da Roma. Giovanni da Roma, Giovanni buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, dica. Allora, il mio caso è un attimino diverso, nel senso che le mie figlie vanno per fortuna entrambe molto bene a scuola. Sì. Il mio problema è stato che la mia prima figlia, nell'inserimento scolastico nel plesso dove andava addirittura dalla materna, ha riscontrato dei problemi con gli insegnanti. Avevo chiesto al dirigente scolastico, alla preside, di poterla cambiare di classe, in realtà questo mi è stato negato. Devo dire la verità, poi con fortuna, per fortuna, perché poi andando in un altro plesso scolastico ho notato come le cose... È andata meglio, ma non solo dal punto di vista dell'insegnamento, è andata meglio proprio dal punto di vista della struttura. Ecco. Cioè, i genitori vanno, verniciano le classi, sistema, io stesso... Vabbè, c'è diciamo un consiglio d'istituto che collabora. Gianni da Mantova ci scrive anche lui questo. Sono membro di un consiglio d'istituto per capire meglio come funziona la scuola, e il mio rispetto nei confronti degli insegnanti è cresciuto partecipando a questo consiglio. Ma mettono i soldi del loro stipendio per comprare le attrezzature, i libri, le cose, ma non scherziamo. E questo è vero, però è vero anche ci sono dei genitori che aggrediscono insegnanti, ma dall'altra parte anche insegnanti che non fanno il proprio dovere. Lo scontro finisce sempre più spesso in tribunale, come ci ha raccontato l'avvocato Michela Scaffetta, che da anni si occupa di controversie genitori-professori. Noi cerchiamo sempre di trovare un accordo con le scuole, sia a tutela dell'insegnante che a tutela anche dell'alunno, a seconda che difendiamo l'insegnante o l'alunno. Ci sono una serie di conflitti che nascono o perché gli insegnanti non fanno bene il loro dovere e quindi per esempio sono superficiali, e poi fondamentalmente perché molto spesso i ragazzi vengono perseguitati, ecco. Perché magari esistono quelle che sono simpatie e antipatie, queste comunque esistono ancora nelle scuole, queste antipatie e simpatie molto spesso poi vanno a evidenziarsi con voti bassi. Prima facciamo delle lettere alla scuola e poi se necessario facciamo cause. Poi comunque consigli che adesso anche alla luce della riforma che c'è stata della buona scuola, il preside comunque ha un potere molto forte all'interno delle scuole, no? E quindi si sente una sorta di padre eterno. Ci sono dei presidi che si arrogano la possibilità di bocciare o di promuovere gli alunni, anche perché il loro voto in sede di consiglio vale doppio, no? Noi per esempio adesso dal mese di giugno saremo interessati con tutti i ricorsi per le bocciature. Bocciature perché magari sbagliano a fare le medie. E le dico anche un'altra statistica che almeno personale mi sono fatta. Tutti questi ragazzi, vittime in una scuola, poi trasferiti in un'altra, tutti ragazzi brillanti. Naturalmente opinioni di ogni genere, a favore, contrarie. Oggi l'insegnante è ignorante, invece scrive Massimo la selezione è scarsa. Beh. Però il problema non è solo italiano, ma è in Francia addirittura. E questo mi ha molto impressionato. Un insegnante su due ha sottoscritto una polizza... in caso di denuncia, quindi non è un fatto solo italiano, ma cos'è? Quindi c'è perché... la polizza contro la denuncia, come i medici. Cioè, il declino della cultura europea passa ovviamente per la scuola e la famiglia. E, c'è un bellissimo saggio di Vargas Llosa che si intitola La società dello spettacolo. Leggetelo, capirete che tempi stiamo attraversando. Certo, tu Pietrangelo sei stato insegnante, l'abbiamo detto. Ecco, queste pressioni da parte dei genitori ti è capitato di subirle, e se sì, come le gestite? No. Nel mio ricordo no. C'è questa pressione cosa. Dei genitori no. No, mi sorprendeva soltanto il fatto che ci fosse uno scollamento tra quello che è il bagaglio del sapere, certo, è l'uso scolastico che se ne fa. Nel senso, per esempio, faccio un esempio immediato. Sì. L'idea che esista un'editoria scolastica, una cosa balzana, stupida, che non coincide poi con quella che è la materia viva, vera delle cose, nel senso, certo, che non ha senso immaginare un Promessi Sposi in versione scolastica quando sappiamo che quel capolavoro poi non può essere mai digerito con quelle forme, così per tutte le discipline, per tutto quello che ne conviene in quella che è la nostra qualità, quella che poi ci cercano nel mondo, l'identità italiana fatta di quelle cose. Certo. E l'idea che esista quindi anche un gergo scolastico, anche un linguaggio astruso, anche tutto un rituale che allontana proprio dalle cose vere. Ecco, sentiamo. Leggi verbali. Sì, appunto. Sentiamo, verbali sono i verbali scolastici fanno impressione. Ecco, sentiamo una testimonianza di un professore come Alessandro D'Avegna, che è l'autore Tagliati di Bianca come il latte, Rosso come il sangue. Ecco, professore, quanto logora il lavoro dell'insegnante? Ma è un lavoro che, come tutti sanno, dopo quello degli infermieri è a più alto rischio di burnout psicologico, perché si dà tantissimo, altrimenti è un lavoro che non si può fare e si riceve pochissimo. Ma anche lei si è sentito in trincea, lasciato solo? No, l'immagine della trincea non le piace. Non mi piace. È vero che le classi hanno la struttura di una trincea, se ci pensiamo, infatti, i banchi sono in quella disposizione. Ma penso più a un giardino in cui c'è la fatica buona di ricevere i semi e avere la responsabilità di farli fiorire. Ma e quando entra in classe che sensazione ha? Cioè, voglio dire, la figura dell'insegnante oggi, come viene percepita? Ma oggi è percepita come quello che ci siamo meritati dopo anni di dimenticanza di questa figura. Ma perché per la prima volta quello che è successo è che, mentre le famiglie un tempo pensavano alla scuola come il luogo, come grande palestra di vita per il futuro, certo, adesso deve essere il luogo in cui far star buoni i figli e farli soffrire il meno possibile. Quindi è chiaro che l'insegnante è una specie di nemico in questa battaglia. Quindi la figura dell'insegnante non è rispettata dai ragazzi? Ma non è rispettata perché c'è una grande crisi dell'autorità in famiglia. Questa, certo, è, diciamo, l'onda lunga di una progressiva lacerazione, distruzione, sgretolamento del concetto di autorità. Le famiglie che l'hanno persa sui propri figli poi pretendono di riaverla dalla finestra a scuola. Ma contro i professori invece che con i professori? Sì, quello che succede oggi è che, siccome si fa fatica a capire a cosa bisogna educare in famiglia, la scuola si sta riempendo di tutta una serie di aspettative che non sono proprie della scuola. Certo. Prima si pensava alla scuola come un completamento di quello che si faceva in famiglia. Nel momento in cui in famiglia non si riesce più a educare, si proietta sulla scuola una attenzione, un'aspettativa che non è propria della scuola e quindi già la vita è difficile, e quindi questi ragazzi non li facciamo soffrire troppo. E quindi si sta di più con i figli che con i professori? Sì, tendenzialmente sì, ma ripeto, per un fatto... È come scaricare una responsabilità. Sì, il criterio di verità è diventato il successo, quindi se il figlio ha un insuccesso, certo, è chiaro che potenzialmente il professore è un nemico. Ora, questa è una generalizzazione, poi ci sono situazioni molto virtuose in cui si continua a fare bene questo lavoro se ci si allea con i genitori. Però è chiaro che le famiglie, essendo sotto pressione, poi con qualcuno tendono a prendersene. La scuola è diventato il bersaglio privilegiato. Senta, ma c'è una differenza tra scuola pubblica e scuola privata nel rapporto tra genitori e insegnanti? Ma senz'altro c'è una differenza. Nella scuola privata c'è un'attesa che è maggiore, anche perché si paga la retta, di mezzo dei soldi. L'attenzione che si pretende sul figlio è maggiore, questa attenzione a volte diventa pretesa. Certo. Nella scuola pubblica c'è un po' la dimensione di dire vabbè, ti lascio mio figlio, te lo affido, pensaci tu. Però poi succede che ci sono tantissimi insegnanti che delle vite dei ragazzi se ne fregano altamente, certo, quindi anche lì ci sono situazioni virtuose, situazioni viziose in base alla sensibilità degli insegnanti. Dei singoli. Diciamo, cioè, il vero punto, problema della scuola di oggi è come gli insegnanti vengono reclutati e come si riesce a formarli, perché il programma non sia solo il programma ma anche la vita dei ragazzi. Poi ci sarà alleanza con i genitori e si potrà cambiare qualcosa. E la buona scuola è una strada buona oppure no? Ma mi sembra che si tratti più di un modo di riorganizzare, di riordinare, non si tratta di vere e proprie riforme. Basti pensare ora a quest'ultima trovata dell'alternanza scuola-lavoro. l'orientamento a scuola è uno dei punti debolissimi. I ragazzi dopo 13 anni di scuola non sanno che facoltà universitaria scegliere. Allora, invece di mandarli in posti che non li aspettano, a cui i ragazzi non frega niente, forse un orientamento fatto più in profondità sui veri talenti dei ragazzi può servire di più. Ivan da Roma? Ivan, buongiorno. Dica. Sì, buongiorno. Dica. Ma volevo segnalare soltanto un fatto che era successo a mia figlia qualche giorno fa. Dica. Mia figlia è un'insegnante di scuola media. Sì. È stata praticamente sequestrata in classe con tutta la classe da uno degli alunni, uno dei più difficili. Poi è riuscita a convincerlo a lasciare che la porta della classe fosse aperta. La preside è una persona che purtroppo non aiuta quasi affatto, proprio perché ci sono questi casi di ragazzi molto difficili che però, a causa delle famiglie probabilmente, con le quali non si riesce a colloquiare, gli insegnanti non riescono a parlare, se ci parlano è un turpiloquio, non è un colloquio. E quindi ecco, volevo segnalare questo ribaltamento. Certo, ribaltamento, appunto. Oggi i genitori combattono a fianco dei ragazzi invece che con i professori nell'educazione dei ragazzi. Professor Massimo Ammanniti, psicanalista. Ecco, se prima appunto l'alleanza era tra professori e genitori, oggi l'alleanza tra genitori e figli contro i professori. Perché? Ma perché è cambiato l'orientamento delle famiglie, nel senso le famiglie non hanno più molti figli come succedeva in passato, hanno per lo più un unico figlio e investono tutto su questo figlio. Naturale. Che diventa come una proprietà familiare che va difesa, è il capitale di famiglia che deve rendere, hanno paura che la scuola non lo valorizzi. Ecco, oggi la famiglia adolescente, come lei ha intitolato il suo ultimo libro, si sostituisce alla famiglia dell'adolescente, così? Esattamente. Cioè, famiglia adolescente vuol dire che sono tutti sullo stesso piano, genitori e figli, e i genitori non hanno più quel ruolo di guida, di mettere poi dei confini, di dire quello che si fa e non si fa, ma condividono gli stessi atteggiamenti. E quindi, non ci sono più distinzioni di ruoli e di età tra padri e figli? Sì, genitori e figli condividono, i genitori diventano confidenti dei figli, condividono la sessualità e le storie sentimentali dei figli e non ci sono più confini. Ecco, ma professore Ammanniti, ma perché se il ragazzo va male a scuola è il professore che sbaglia metodo e non lo capisce e semplicemente non è l'alunno che forse non studia? Oggi i genitori sono portati a pensare che gli insegnanti non fanno bene il loro lavoro e non valorizzano il loro figlio. Cioè che i loro figli sono perfetti e sono i professori che sbagliano. Crea una complicità fra genitori e figli contro la scuola e questo è deleterio. E quindi diventa tutto lecito contro la scuola, anche la violenza. E infatti gli insegnanti sono in prima linea e non solo devono fronteggiare i problemi della classe, ma soprattutto i genitori, con il rischio poi anche di essere chiamati davanti al tribunale perché non sono adeguati e trascurano il figlio, lo rifiutano e così via. Ecco, ma se la famiglia appunto ha tutti questi problemi che abbiamo detto di crisi di identità e di ruoli, i professori sono cambiati anche loro oppure no? Ma per certi versi i professori sono cambiati perché non hanno più il ruolo sociale che avevano in passato, il tipo di riconoscimento. Sono delle persone che devono cercare di sopravvivere a questa situazione. C'è un altro fatto che va preso in considerazione, che i ragazzi di oggi sono molto diversi da quelli del passato. Basti dire come usano le tecnologie, per cui richiederebbe anche uno sforzo diverso da parte degli insegnanti. Un aggiornamento diverso, ma le ultime riforme, per esempio, hanno trasformato la scuola in una buona scuola? È solo una cornice, il problema poi è come uno organizza, cominciando, non so, dallo spazio della classe, che ancora riflette vecchi orientamenti addirittura dei primi del Novecento, certo. Mentre occorre ripensare completamente lo spazio della classe, la didattica, il lavoro e le stesse materie, e direi che su quel piano lì la riforma affronta la cornice, non i contenuti. Ecco, professor Ammanniti, le faccio un'ultima domanda, ma per salvare le vere vittime di questa battaglia tra genitori e professore, e cioè salvare i figli, che cosa si deve fare? Io credo che i genitori intanto dovrebbero, per quanto possibile, mantenere il loro ruolo di genitori, saper dire sì e saper dire no, avere un ruolo di guida e sapere anche affrontare il contrasto con i figli. I genitori purtroppo preferiscono la strada più facile e io credo che questo è il primo passo. Il secondo, che occorre ritrovare una continuità fra insegnanti e genitori, sapendo che il compito degli insegnanti, come giustamente diceva Freud, è un compito quasi impossibile. Questo Ammanniti, bravissimo. Ottimismo, pessimismo, complicato, e far meglio per far meglio si rischia di fare peggio. Giovanni da Roma ci dice: il problema è che non c'è più rispetto dell'autorità intesa come genitori, insegnanti, fino ad arrivare al rispetto alle istituzioni. Insomma, le regole vanno in qualche modo riscritte, interpretate e vissute. Giovanni da Napoli, no? Mi pare che sia così. Babbo, mamma, figli, e quando non va bene pedatene lì dietro, mi dispiace ma è così. Pietrangio, anche tu? Sei d'accordo? Al di là di questa guerra però mi preoccupa l'altra guerra di cui non si parla mai, quella contro l'ignoranza. È un pezzo di questa guerra, naturalmente. Però è la base di tutto. Perché è una guerra sia dentro la famiglia che dentro la scuola. Basterebbe che ognuno facesse il proprio ruolo. Le famiglie dovrebbero imparare a stare zitte e affidarsi. È un po' come quando si va dal medico. Non è che si discute mai quello che dice il medico. Ci si affida, così dovrebbe essere con la scuola. Giovanni da Napoli, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno Terminoli, buongiorno a tutti. Dica. Porto una testimonianza in campo accademico universitario, non soltanto nell'ambito della scuola primaria e secondaria, non tanto in termini di aggressività nei riguardi dei docenti. Spesso e volentieri amici mi pongono in evidenza difficoltà dei propri figli con colleghi docenti universitari. L'esperienza mi ha insegnato a voler ascoltare i ragazzi per primi e nell'80% dei casi si rileva che questa difficoltà è basata sull'ignoranza stessa dei ragazzi, che sostanzialmente come diceva Pietrangelo fa specie che stiamo parlando di non più di adolescenti ma di uomini non dico belli e fatti ma già in età avanzata, per cui c'è intanto una assoluta carenza di autogestione di autoanalisi da parte del ragazzo, poi un eccessivo protezionismo da parte questo è il punto, è quello che abbiamo detto più o meno per tutta la puntata, naturalmente per finire in un modo un pochino meno drammatico, perché non è che mi lascia allegria. Giovanni, fammela dire, dilla questa. Sono asini, hai capito? Asini, basta. Enrico Brignano racconta, come fa lui, come sono cambiati i colloqui tra genitori e insegnanti, così, questo per finire. Io quando ero piccolo ero portato ai colloqui con gli insegnanti da mio padre. Mio padre mi ci portava con rancore, mi teneva al muso già da una settimana prima. Quando andavamo avanti alla professoressa Di Mario, mi dica: guardi, suo figlio va bene ma potrebbe fare di più. Disgraziato, mi ammazzava le botte. Oggi è diverso, oggi la professoressa non ha più ragione a prescindere. Dice: oggi i genitori vanno ai colloqui scolastici accompagnati dai figli per valutare il profitto degli insegnanti. Allora, professoressa, questo è mio figlio campione del mondo di tutto, signora. E ci dica tutto, professoressa. Guardi, signora, suo figlio è un maleducato. E poi, signora, una volta che viene interrogato, suo figlio non capisce niente. Cara la mia professoressa, sarà pur vero che mio figlio non capisce niente, ma è un suo diritto crescere maleducato. Sarà il suo io che lo porterà ad affermarsi in questo mondo competitivo e individualista. Ha ragione, signora. Il mondo ha tanto bisogno di stronzi, ma non è facile formare ignoranti di successo. Cosa vuole? Sono i limiti della scuola pubblica. Questo è Enrico Brignano che ha fatto una bella sintesi. 800 24 00 24 numero verde 349 238 6666 l'SMS pubblicità. Mix 24. Beh, durante la pubblicità ci siamo raccontati qualche storia individuale. Cioè, io ricordo la mia madre, il terrore che avevo quando andava dai professori, perché li incitava a essere severissimi. Io ero terrorizzato, ma Pietrangio ci ha fatto molto ridere con la sua storia. Racconta un po'. È la storia di mio zio Nino Buttafuoco, quando era in collegio a Catania. E c'era il momento fatale dell'incontro coi genitori, terrorizzata alla prospettiva di portare mio nonno e suo per padre davvero. Per davvero, si mise d'accordo con un tipo alla Villa dei Vadagli a Catania, no? E lo pagò per fare questo ruolo. Allora questo si presentò alla riunione dei genitori e, parlando con il professore, come va questo ragazzo? Ah, questo ragazzo non è che studi tanto. Ah no, tembolata, uno schiaffone. E poi bisogna dirlo tutto, non sta mai fermo. Ah no, e lui si scioglie la cintura e comincia a dare cinghiate, per cui tutti quanti i professori cercano di trattenere questo. La scena si placa, finalmente vanno fuori e quello ha la faccia di presentarsi da mio zio chiedendo il quanto pattuito, il pagamento. Ma come? Io ti chiamo apposta per evitare di fare venire mio padre. Ma figlio mio, se non avessi fatto così, che figura ci facevi? Molto divertente. Tua canzone, Pietrangelo di Eccola. Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo allora. E allora c'era uno oggi in metropolitana, aveva le lacrime, zuppe di notte, quella della notte appena trascorsa. In questo mattino le strade gli sembravano tutte cieche, non riusciva a parlare neppure a guardare, e aveva in tasca tutti i ricordi e tutto il meno che niente. E si è capito, è straziante perdere la testa per una ragazza che entra nella vita come una colomba e poi se ne va via, anzi gli lascia l'anima e si porta via il cuore, magari per darlo a un altro. Insomma, ha chiamato Obelix stamattina, ha voluto questo brano per Falbalà con un messaggio. Che cosa ne sanno gli amori delle dure scorze dei menhir? Hai capito? Cosa ne sanno, Mario? E gli amori delle dure scorze dei menhir, non so se mi spiego. Mica poco. E no? Quello è Obelix. Certo, caduto nel pentolone da piccolo. Esatto. Come noi. Bolla. Mi sto agguerrerizzando. Oramai mi sa che comanda lei. Comanda la guerrera. Mi sto agguerrerizzando. È una cosa un po' da teen questa. È cambiata la playlist. Aston Marigold, Get Stupid. Sentiamo ancora un po'. Insomma, Get Stupid, non so se c'è da diventare matti o stupidi, però il mercato del petrolio è davvero affascinante, è bellissimo da raccontare, da osservare, servono veramente molte competenze per azzeccare che cosa farà. È vero, quello che diceva ieri Scaroni. Sì, per azzeccare cosa succederà in questo mercato. Beh, insomma, tomo tomo, quatto quatto, direbbe Totò, alla fine il barile è là, è a $50. Stiamo su una soglia che ha tutta una storia molto interessante, dietro e soprattutto davanti. Pensate, il 20 gennaio il Brent era a $27 e ieri ha chiuso 48. quindi ci siamo, cioè è un rally. Vabbè, era da... 100 sì. Voglio dire, tu immagina che cosa succede con un rally a 80% in tutti questi mesi. È molto interessante, bisogna tenere d'occhio molte cose come sempre. La Nigeria è al minimo di produzione negli ultimi 20 anni, mi pare. La Libia, sapete tutti, ha molti guai per produrre come nell'era pre-rivoluzionaria. Ci sono stati gli incendi in Canada che hanno creato dei problemi nella produzione, e a questo punto, oltre ai regime change, cambi nell'Arabia Saudita, eccetera, di cui abbiamo parlato ieri, sì, di cui abbiamo parlato ieri, e c'è il fatto che a $50 riproduce, cioè ricomincia lo Shell Oil, torna in gara. Pensate, nelle ultime 19 settimane, eccetera, leggevo stamattina, gli hedge fund hanno accumulato posizioni sul petrolio, titoli, in pratica futures, insomma, eccetera, pari a 700 milioni di barili. Cosa significa? Che hanno provato a fare quello che faceva Gordon Gekko, cioè a specularci sopra, e ci hanno guadagnato, perché sai, voglio dire, da 27 a 48, 50 salirà ancora, perché vedo che la domanda, stamattina c'era un'altra cosa molto interessante, la domanda di petrolio è destinata a salire perché sta cominciando quella che in America si chiama driving season, cioè tutti, certo, escono, tutti in vacanza, weekend, va via. Bene, Salamino. Cancelletto, cancelletti, Renzi, lo sai Giovanni, Renzi ha fatto cancelletto Matteo Risponde, dilagando su Facebook, lo ha fatto ieri perché lui non è come gli altri, lo ha detto infatti, io non sono come gli altri, sono diverso da loro, lo ha detto ed è stato subito Marchese del Grillo. Mi dispiace, ma io so io. E voi non siete un cazzo. Insomma, questa è la morale, perché è sempre dolce il messaggio del Premier, che ieri alle 21.30 ha lanciato in rete il suo nuovo talk, sfidando per esempio When you take that jump, you don't feel the fall. Sfidando niente meno che Amici di Maria De Filippi, sfidando altresì La Partita del Cuore su Rai 1, sfidando La Gabbia sulla 7, cancelletto, cancelletti, cancelletti dappertutto, con un occhio, ha detto il Premier, di riguardo a chi lavora. Insomma, il capo del governo, non avendo altre trasmissioni da sfidare, cancelletti di qua, cancelletti di là, ha detto uno. Ha detto non sono come gli altri, non mi occupo delle nomine in Rai. Ha detto così Giovanni. Ha detto così. Due. Ha detto che è finito il tempo degli editti bulgari. Ha detto così Giovanni. Tre. Poi ha detto non metto naso nella scelta delle persone. Insomma, lui che cosa fa? È passato poi a sciorinare i sogni e i desideri. Sogni son desideri. Certo che è una beatitudine poter essere contemporanei di Matteo Renzi, perché è tutto un cancelletto, cancelletti, sogni, desideri. Toglie le tasse Renzi, e ha detto che darà una mano al ceto medio. Equitalia infine diventa pure Equitalia un cancelletto, io me lo ricordo, una sorta di Equitalia stai serena, perché ha detto che al 2018 Equitalia non ci arriva, quindi al 2018 Equitalia non mangerà panettone, non mangerà Pandoro, non mangerà la colomba e Pandoro vanno insieme, no? Insomma, uno è Pasqua e l'altro è Natale, giusto, Pasqua, Natale, Epifania, insomma guai a chi non crede a Renzi, perché non sono più gufi ma adesso sono profeti di sventura. Poi, siccome l'INPS dà in calo le assunzioni, lui ha detto queste assunzioni a tempo indeterminato, che poi altro non sarebbero che poltrone, ha detto che non è vero, sono solo balle, sono solo spargitori di balle. Vabbè, e Matteo risponde, Matteo risponde al cancelletto, ha detto che ha interrotto la caduta e ha ripreso la salita. Insomma, cadde e si rialzò. Aspettiamo di vedere questo rialzarsi, perché tutti questi cancelletti sono, allora io ho contato, il cancelletto Italia cambia verso, cancelletto Italia la volta buona, cancelletto l'Italia riparte, poi vuole licenziare pure i furbetti del cartellino. E quelli già si possono licenziare. Sì. Poi dice che contano più le idee che le poltrone. Poi dice che se perde il referendum se ne va. Perché quelli del no, questo non lo dovevo quelli dire. Del no, quelli del no, vediamo il tuo gesto, lo so no, che siamo dice che sono attaccati alle poltrone. Vabbè. Dice che invece quelle del sì sono per il raddoppio della poltrona. Vabbè, okay. Diciamolo, perché al Senato ci mettono i consiglieri regionali e gli regalano anche l'immunità parlamentare, ma è sempre cancelletto, insomma, chiudendo, è sempre Marchese del Grillo. Mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, sms, pubblicità. Mix 24. Io ho sempre tanta speranza, perché lo sanno, siamo persone di fede, eccetera, quindi la speranza è che sì, mio marito è nelle loro mani, è perché per il momento non lo volevano far fuori, ecco. E sono vicinissima a mio marito, forse più che se fossi qui. Spero tanto, ecco, che siano umani, ecco, in fondo poi il cuore è la speranza, ecco. Così Gabriella Tagliercio, a un mese dal rapimento del marito, l'ingegnere Giuseppe Tagliercio, 53 anni, 5 figli, direttore del petrolchimico di Porto Marghera, uno dei simboli del capitalismo italiano. Tagliercio viene rapito il 20 maggio dell'81 mentre è a casa con la famiglia. Solo un anno prima le Brigate Rosse uccidono il vice direttore dello stabilimento. Quella di Tagliercio è dunque una morte annunciata. Ma non ci sono richieste, nessun riscatto, solo il silenzio. Poi, dopo 47 giorni, il corpo, crivellato di colpi, viene ritrovato in un'auto abbandonata. Giuseppe Tagliercio, uno delle vittime degli anni di piombo, il racconto emozionante e terribile dei giorni del sequestro, le testimonianze dei familiari, i documenti esclusivi qui a Mix 24, il giallo della storia, dopo il giornale radio. Mario? Ancora una bolla. Che fate? Non mi mettete la musica? No, vai, vai. Vabbè, allora, non vi do c'è solo, tempo. Vi do solo un numero. Perché è importante il mercato cinese dei telefonini? Perché raggiungerà la cifra di 500 milioni di pezzi venduti. Quindi, chi vuole giocare la partita delle comunicazioni su smartphone deve andare. Molto semplice. Ma semplice. Si Basta. Gioca in Cina la partita Basta. Dei telefoni. Molto semplice. Bene, per chiudere, Gloria Guerrera, che cosa ha scelto oggi per noi? Una canzone per chi si ritrova finalmente nello specchio. Una femmina perfetta, potentissima. Gianna Nannini, Volo. Mi hanno detto che non va. Mi hanno detto non si fa. Come Pippi calze lunghe leggendarie.